Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. André Silva prova lui, rete! André Silva! Il bomber non sbaglia, trova l'angolo, Milan in vantaggio. Conti va sul fondo, ancora André Silva, tocca male e poi c'è Borini. Montolivo, controllo, destro secco, rete! Doppietta per lui questa sera. 6-0. Fa festa Montolivo. Sotto la curva. Fa festa Montolivo. Chi l'avrebbe detto? Ma è un grande risultato, quindi merito ai ragazzi che l'hanno resa facile la partita, soprattutto con l'approccio iniziale. Sono molto contento dei gol a questo punto di Montolivo, che se lo meritava. Insomma, ho visto anche un pubblico molto partecipativo sia con la squadra che con lui, quindi è stata veramente una serata positiva. Peccato solo per l'incidente di Jack, ma per il resto è una serata molto molto positiva. Bellissima emozione, soprattutto nei primi minuti. Abbiamo portato a casa una vittoria importante che ci fa guardare avanti con positività. Ti abbiamo già visto, oltre che capitano, anche leader già nel pre-partita, quando hai riunito la squadra e hai fatto quel discorso. Ho cercato soltanto di dire alla squadra che non esistono partite facili. Ogni partita si scende in campo per la vittoria, ma questo loro lo sapevano già, non ho detto niente di nuovo. Ciao Gianmarco Ferronato in regia, ciao Claudio Schettoni in redazione, ma soprattutto buongiorno professor Capuano. Buongiorno a te. Buongiorno. Abbiamo un grande ospite, prima però fammi lanciare i numeri e gli hashtag. Lancia, allora, 800240024, se ci volete chiamare in diretta siamo qui e quindi spazio. Chi chiama cerchiamo di passarlo in diretta, 349-238-6666, sms, whatsapp. E poi da ieri aperta la nostra griglia del campionato, oggi la Gazzetta ha messo il carico da 90, ha detto che lo scudetto lo vince il Napoli davanti alla Juve, Inter terza, Milan quarta. Bisogna fare il titolo. Quindi l'hashtag è hashtag griglia Serie A su Twitter, hashtag tutti convocati. Noi abbiamo pubblicato quella di Pardo ieri e insomma aspettiamo la vostra e le leggiamo tutte, ne ho già tante da leggere, però abbiamo un grande ospite, dai. Bomber, uno dei più amati trasversalmente ogni epoca. Maurizio Ganz, buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno. Ciao, come stai? Anche perché ho cambiato tante squadre, sì. Quindi è possibile. Amato e odiato, perché amato poi c'è... e odiato, ma è così. Odiato cioè... perché sei sempre stato pericoloso, certo. Davo fastidio in campo, diciamo. Certo, ma chi sta con te ti ama, chi sta contro ti odia, no? Come tutti i grandi. Certo. Cioè, ti favi Meneghin, se giocava a Varese ti stava sui coglioni, se giocava per a Milano. Ma tu sei interista o milanista? Ma stai dicendo me? Sì. Ascoltami, io ho giocato per tante squadre, ho sempre difatto le squadre dove giocavo, sono rimasto legato al Milan, questo lo sappiamo, l'ho sempre detto, perché insomma ho tanti amici, mi sono trovato bene, lo scudetto ha fatto sì che fossi legato ancora di più, insomma, però a me piace il calcio, mi piace il bel calcio e quindi sono amante del calcio bello. Quindi ieri sera sei divertito o quella del Milan è stato un allenamento del giovedì? È stato un allenamento del giovedì, però devo dare atto a Montella che ha detto che la squadra nei primi 15 minuti ha voluto vincere la partita e l'ha vinta. Sono entrato in campo con la mentalità giusta, sono toccato anche con Curucci che quando dice non ci sono partite facili e difficili, ci sono partite da giocare e con la giusta mentalità, insomma. Però ieri è stato un altro che è veramente un amichevole, e porta da casa, e l'importante è le qualificazioni. Poi, questo è chiaro, Maurizio. Salutiamo come sempre Vincenzo che ci ascolta come ogni giorno dalla Corea, ormai è un amico fraterno. Senti Maurizio, la domanda dell'estate a proposito del Milan è: quanto ci vuole a mettere insieme una squadra nuova? C'è chi dice giocatori bravi possono stare tutti bene insieme, va bene, però quando hai in linea di massima 8, 9 undicesimi che giocano insieme per la prima volta, una sorta di, diciamo, nazionale, una sorta di selezione, quanto ci vuole per farla diventare una squadra? Come dicevi tu, insomma, con i giocatori bravi ci vuole di meno, ci vuole meno tempo, però è chiaro che per trovare la giusta amalgama, trovare quella sintonia Dentro e fuori dal campo ci vuole qualcosa in più. Io credo che il Milan sia sulla strada giusta. Quest'anno veramente ha fatto una campagna acquisti mirata, come non nelle ultime stagioni. E credo che Vincenzo stia facendo un ottimo lavoro. L'ha fatto quando la squadra non era all'altezza e la sta facendo adesso, quando secondo me quest'anno la squadra è all'altezza. Quindi non sei d'accordo con Sceva, altro grande attaccante ex del Milan, che ieri ha detto che non si vede il progetto, è un mercato un po' confusionario. Io non sono d'accordo personalmente. Non sono d'accordo perché i giocatori sono stati scelti, mirati in tutte le zone del campo. Certo, poi le amichevoli o qualificazioni, insomma, lasciano il tempo che trovano. Poi dalla prima di campionato vedremo la consistenza del Milan. Ma credo che il mercato del Milan quest'anno, come non mai, sia stato assolutamente mirato in ogni parte del campo. Guarda, io non sono d'accordo con te. Non ci sono io neanche credo la maggior parte del popolo rossonero, che invitiamo 800240024, così come invitiamo tutti gli altri, stesso numero per la griglia del campionato. Invitiamo anche quelli che ieri si sono innamorati di André Silva, Di André, poi sì, c'era questa suggestione della data in cui 22 anni fa Van Basten ha smesso ufficialmente di giocare a calcio. C'ero. Hanno bestemmiato alcuni, secondo me. C'ero, per via di questa suggestione, non dimenticherò mai le lacrime con Marco, con il jeans chiaro e il giubbotto di Renna beige che fa il giro del campo. E chi ama il calcio, non chi è milanista, sente il groppo in gola. Ma è difficilissimo paragonare Marco Van Basten in qualsiasi altro attaccante, ecco, no? Ecco, quindi bravo. André Silva ha 22 anni, potrà migliorare tanto. Ieri ha fatto due gol importanti, ha dimostrato di essere un'ora centravanti d'area, però è chiaro che pensare a Van Basten, piano con le parole, assolutamente sì, ha bisogno di Kalinic in Milan, dai. Sì. Kalinic, attenzione, io penso una cosa: Kalinic è sottostimato da tutto il popolo calciofilo d'Italia. Io no, tantissimo. È un giocatore che ha voglia, determinazione, ha dei colpi, segna in tutte le maniere, dalla sua parte ha la quantità, ma ha la qualità. Bravissimo. Dei gol, ma soprattutto i numeri. Se tu vedi i numeri di Kalinic dell'anno scorso, ha fatto 15 gol, sì, e due anni fa 12. Aspetta, però Maurizio, io ti ringrazio, perché è tutto l'anno che litigo con Pardo, dall'inizio dell'anno scorso, quando mi diceva ma viene dall'altro campionato dove erano già preparati, e quindi no. Poi Pierluigi, per carità, però secondo me è un eccellente giocatore con una eccellente intelligenza calcistica. Secondo me sì, e poi ha dimostrato di saper far gol in tutte le maniere. Poi Montella, siccome lo conosce molto bene, l'ha sempre voluto e sta cercando di portarlo a casa a tutti i costi. Quindi voglio dire, anche sull'aspetto tecnico-tattico del pensiero di Vincenzo, Kalinic si potrà sposare bene. E ti dirò, cambiando anche il sistema di gioco, non è detto che possa giocare sia Kalinic che André Silva tutti e due insieme all'attacco del Milan. Staremo anche un po' a vedere sotto questo aspetto. Sì, poi il problema di Kalinic è che se Fassone e Mirabelli, e lo hanno detto, dicono cercheremo di prendere uno tra Belotti, Aubameyang e Morata, chi arriva dopo sembra sempre riduttivo, sembra sempre una seconda scelta, che è un po' il problema per i tifosi dell'Inter, di quello che si sono sentiti raccontare quest'inverno sul mercato dei top player, e adesso storcono. Aubameyang io non lo vedo, per la verità. No, però è quello che ha detto, hanno detto Fassone e Mirabelli un mesetto fa, però anch'io sono convinto che Kalinic sia un ottimo colpo. Lo salutiamo però con una domanda secca. Chi parte davanti tra Inter e Milan? La Juventus. No, la Juve e il Napoli. Facciamo finta Napoli, che sono davanti a tutti. Ma fra Inter e Milan? È tutto da vedere. Secondo me anche l'Inter è un'ottima squadra, non è da sottovalutare. Ha un allenatore che a me piace tantissimo, perché io l'ho avuto, a parte che l'ho avuto io a Venezia nel 2000 in Serie A, e so la forza di questo uomo. E poi mi aspetto ancora qualcosina da parte dell'Inter, però stiamo a vedere. Io spero, onestamente, da amante del calcio, e io abito a Milano ormai da 15 anni, insomma, vedere l'Inter Milan di nuovo in Champions League è la cosa basilare. E vedrei veramente tutte queste due squadre che potessero competere sia per la vittoria del campionato e soprattutto per loro ritorno a breve in Champions League. Questo ce l'auguriamo tutti, da milanesi chiaramente. Senti, allora ti faccio un'altra domanda da abitante a Milano e tifoso delle squadre milanesi: chi parte davanti tra Lazio e Roma? La Roma. La Roma? Vabbè, non siamo d'accordo. La Roma, perché, ma ti dico, al di là delle perdite di qualche giocatore importante, il primo è Salah, perché è un giocatore straordinario è fantastico, per me ha fatto delle cose incredibili. È il calcio, secondo me Salah è il calcio moderno, va benissimo. E la Roma ha un progetto da 3-4 anni che sta portando avanti, e mentre Inzaghi, Simone sta facendo un ottimo lavoro con la Lazio pur non avendo una squadra incredibile, quindi diamo merito a tutte e due le squadre. Poi io vedo che la Roma sia un attimino un po' più avanti della Lazio, nonostante che la Lazio abbia vinto la Supercoppa, sono stati splendidi, devo dire la verità. Ma io vedo davanti la Lazio che comunque perderà Keita, ma ha un giocatore che secondo me è mostruoso come Milinkovic-Savic. Maurizio, ti ringrazio, a presto. Un abbraccio a voi, grazie mille. Ciao, presto. Maurizio Ganz. Te ne leggo un po' di griglie. Allora, lo ricordiamo, 800 24 00 24, per telefonare in diretta 349-238-6666, sms, whatsapp, oppure fammi sentire i fenomeni su Twitter, l'hashtag griglia serie A, tutti convocati. Allora, noi abbiamo pubblicato quella che ha detto ieri Pier, quindi Juventus Napoli, Inter Milan, Roma Lazio. Leonardo dice: ad agosto sono tutti più forti, poi alla fine vince la Juve, a maggio sarà così anche quest'anno. Poi Danilo: il Napoli gioca bene, ha una bella squadra, ma la Juve sulla carta è di un altro spessore. L'Inter senza coppe vale il terzo posto. Ancora un altro amico che ha un nome strano, DJ501: la Juve è sicuramente davanti, poi Napoli, Milan, Roma e Inter, anche se Spalletti è un grande acquisto. Poi Peter: Juve prima, Napoli seconda, Roma terza, quarta insieme, e poi insomma vedremo chi va in Champions, Lazio, Inter e Milan in quest'ordine. Ancora Davide: Juve, Napoli, Milan, Roma, Inter e Lazio. Poi Juventus, Napoli, Inter, Roma, Milan insieme a giocarsi il quarto posto, le altre dietro. E poi ancora Francesco: Napoli, Milan, Lazio, Inter, Juventus, Roma. Insomma ne abbiamo tante, noi siamo qui fino alle 15, vi aspettiamo. Poi oggi la Gazzetta ha messo il carico da 90, io lo ripeto, il Napoli davanti alla Juventus, e ha ricordato che solitamente i giornalisti della Gazzetta ad agosto azzeccano chi vince lo scudetto. Sì. Storicamente è così. Azzeccano i titoli. Traffico. Convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Tutti convocati. Per chiudere, il tuo ex direttore generale Marotta ha detto oggi: per lo scudetto favoritissime la Juventus e il Milan. Mi fa piacere, vuol dire che ci temono, però c'è da lavorare per arrivare al livello della Juve. Leo ha fatto tra l'altro 7 anni e devo dire è stato importantissimo, però secondo me personalmente penso che ci sono delle dinamiche in una squadra di calcio dove ci sono 23 giocatori, dove ne vanno in campo 11, dove nessuno secondo me ha mai destabilizzato o comunque sia ha mai fatto troppo la differenza. Ci sono pochissimi giocatori, Maradona, forse c'è Messi, Cristiano Ronaldo, ma e di conseguenza essendo in 11 secondo me uno o due giocatori non ti spostano l'equilibrio. Allora, questo era Barzaglione. Marotta è andato lungo, Marotta è andato lungo dicendo che il Milan è favorito come la Juventus. Anzi, la Juventus è favoritissima, ma il Milan è favorito per lo scudetto. Secondo me, ha messo un po' le mani avanti. Andiamo avanti a leggerli, guarda, ne ho tantissime. Vai, vai Giovanni, allora, vai, siamo qui a hashtag posto, tutti vai. Convocati, hashtag griglia di Serie A, se volete scriverci. Anzi, 800 24 00 24, se volete chiamarci pure meglio. Esatto, siamo qui. Allora, Napoli, Inter, Roma, Juve, Milan. Questo è Nicola. Poi Marcello: il Napoli vince, ma dopo 6 anni di pancia piena, quindi è tifoso juventino, immagino ci può stare. Poi ancora Fabrizio: la Juve parte favorita, la squadra più forte, abituata a vincere, oltretutto anche quest'anno ha speso tanto per rinforzarsi. Poi Napoli, Inter e Milan, e più indietro Roma e Lazio. E ancora Fabio: è normale, il Napoli gioca il calcio migliore ed è arrivato il momento di vincere, quindi è giusta la griglia, immagino quella della Gazzetta dello Sport. Poi c'è un tifoso dell'Inter, il suo nickname è il Ramarro, Panchev. Se non succede qualcosa di imponderabile, la Juventus vince con la sigaretta in bocca. Porco cane, ancora Panchev. Federico, Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Juventus addirittura dopo Fiorentina e Atalanta. Sì. Anche qui mi sa che zona siamo andati. Va bene, siamo andati lunghi. Alfredo, vedo le milanesi lunghi. Più avanti e il Napoli più indietro, le spalle immagino della Juve. E poi ancora Manuel, in una squadra in cui giocano titolari Reina, Isai, Albiol, Koulibaly e Jorginho, insieme ad Allan, da quarto quinto posto. Arturo, sì. Juve, Inter, Napoli, uno scalino sotto la Roma e poi il Milan. Vabbè, sentiamo qualcuno che ci capisce un po' di più, va. Dario Marcolin, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Ciao bello, senti, tutto. Stiamo facendo griglie di partenza improbabili. Anch'io, dimmela. Guarda, io dico Napoli perché è 3 anni che giocano insieme, giocano un calcio diverso dalle altre squadre, 2 anni di rodaggio, questo è il terzo anno giusto. Attenzione all'Inter, io dico che l'Inter è una squadra che insieme alla Juve sono quelle che vedo davanti, per cui Napoli, Juve e Inter sono le 3 squadre per me. E la quarta che va in Champions chi è? Lì se la gioca il Milan sicuramente, se la gioca la Roma sicuramente, lì la griglia è un po' più difficile. Più difficile perché sai, c'è sempre qualche, vedi che l'Atalanta è stata una squadra che a un certo punto nessuno pensava, eppure è arrivata fino a là facendola, nonostante era una piccola tra virgolette, ha fatto la grande, capito, come risultati, e quindi una sorpresa c'è sempre, però per me il Napoli quest'anno è l'anno in cui raccoglie attraverso il gioco. Sì, però senti amico mio, che tra l'altro da stasera per Fox Sport ti fa una bella rimpinzata di Bundesliga, full immersion. Poi facciamo anche la griglia della Bundesliga che è difficile. Ma anche quella della Liga che è facilissima. anche quella della Liga che è difficilissima. Dario, allora hai ragione, io il Napoli lo vedo dietro la Juventus, però al di là dei centimetri e del fatto che io ho suggerito Gallinari, dato che ha problemi a una mano ma con la testa ci sa fare, le Sare si lamenta della statura dei suoi, quando questi smettono di prendere gol sui palloni che volano? Ma sai, il Napoli, ti dico una cosa, difende a zona, quindi non hanno una marcatura ben precisa, è successo l'anno scorso con il Real Madrid che ha preso 2 gol con Sergio Ramos. A volte sai come si dice, quando uno dice che fai esperienza è perché la volta dopo hai una risposta diversa all'errore che hai commesso. Io credo che Sarri quest'anno sulle palle inattive sarà sicuramente bravo e attento a cambiare qualcosa. Ti faccio un esempio stupido: quando eravamo all'Inter con Mancini noi difendevamo a zona, però quando giocavi contro un attaccante come Bobo Vieri, mi viene in mente, forte di testa, una marcatura fissa c'era e gli altri erano a zona, cioè il giocatore più pericoloso prendevi a uomo e poi il resto, ecco, secondo me quello che deve fare il Napoli per migliorare queste palle inattive, quando giochi contro Sergio Ramos, faccio un esempio, Albiol va o Koulibaly va a uomo con Sergio Ramos e gli altri mantengono l'impalcatura della difesa zona. Ma ecco, secondo te adesso, e mancano 13 giorni alla fine del mercato, qual è la difesa più forte tra Juventus, Roma e Napoli? Io vi dico da dove partivano. La Juve ha incassato l'anno scorso 27 gol, la Roma 38 e il Napoli 39. Ma era la Juve con dietro Bonucci, con dietro Dani Alves. Oggi dietro Dani Alves, piano con le parole. Quello era il blocco, Dario. Io ti dico, allora, noi stiamo ricordando la Juve degli scudetti non per la fase offensiva, ma questa è la Juve di Bonucci, Chiellini, Barzagli e Buffon, bravissimo. Non c'è Bonucci, qualche problema secondo me ce l'hanno, ma non ce l'hanno perché gli serve qualcuno che imposta dal basso, così gli mancheranno un po' le caratteristiche, l'affiatamento, il fatto che era la Juve di quel gruppo, cioè la Juve che ha fatto le finali di Champions era la Juve di Bonucci, Barzagli, Chiellini e Buffon, non era quella di o Tevez un anno o Higuain un altro, per cui lo zoccolo duro secondo me la difesa della Juve è sempre la più forte. Bisogna vedere quest'anno nella velocità, nel senso di affiatamento tra il reparto, se è ancora la Juve di quella generazione. Beh, sai, perché bisogna anche cambiarle, Dario, le generazioni, cioè lo zoccolo duro rimane, ma mi sembra che la Juve stia lavorando per il futuro tra Rugani, Caldara e... Ma guarda, a me Rugani piace molto, secondo me è molto bravo, però è più bravo sull'uomo, meno secondo me a fare quello dietro che fa il regista difensivo. Rugani l'ha fatto col Tottenham, l'ha fatto abbastanza bene, cioè bisogna capire anche le gerarchie di Allegri, però qualcosa cambierà. Ovviamente la difesa che si muove meglio di tutti è quella del Napoli, che come dicevi tu però ha peccato sulle palle inattive l'anno scorso, ma quest'anno lo vedi già nel precampionato che ha fatto, l'hai visto col Nizza 2-0, cioè non sta prendendo gol, eh? Cioè, qualcuno in precampionato che non conta niente, però qualcuno in precampionato sì, l'ha pigliato. Il famoso drone di Sarri che fa la fase difensiva, a forza di idee sembra che sia prolifico. Dario, tu prima hai parlato di Rugani, ti piace tantissimo, però io voglio essere maligno. Tu sei stato un grande giocatore, hai fatto l'allenatore, anche insomma su panchine importanti, aiutando tecnici importanti. Stai parlando di Huevos? No, io voglio parlare di Rugani, cioè Huevos. Quando uno per due anni viene considerato un predestinato e all'inizio della terza stagione, che è quella in cui ti si libera davanti un'autostrada, pronti via, resta fuori, e anche nei cambi della partita che si sta complicando alla fine si sceglie di spostare in mezzo il ragazzino da 36-37 anni come Barzagli. Secondo te, da calciatore come la prende e da allenatore che segnale è? Che stiamo parlando di coglioni. Huevos in argentino. Allora, secondo me il segnale che gli arriva a lui dall'allenatore è che probabilmente al 100% non è ancora convinto di farlo giocare. Il giocatore si può arrabbiare, però mi sembra talmente professionista, talmente serio come ragazzo e talmente non perde di vista, secondo me, Rugani, il fatto che sta alla Juve. Non è che sta in una squadra, diciamo, di media classifica. Secondo me lui ancora un anno cerca di giocarsela alla Juve, poi dopodiché non entro fine agosto, ma se dovesse succedere l'anno prossimo può darsi che vada anche all'estero, non lo so, però io credo che sia giusto che lui si dia ancora un anno. Dario, facciamo, visto che sei del tema, griglia di partenza della Bundesliga. Questa sera sarà Bayern Monaco, Bayern Leverkusen su Fox e poi la Liga. Non mi sembra difficilissima la griglia di partenza. Ma guarda, l'unica cosa che un po' destabilizza secondo me è stato questo precampionato del Bayern Monaco, che comunque ha perso con Milan, Inter, Liverpool, Napoli, insomma. Hanno fatto 6 amichevoli e hanno preso 14 gol, però e hanno perso bene, hanno perso con impegno. Ma, secondo, ma guarda, conoscendo un po' Ancelotti, quasi apposta, io me lo vedo sogghignare. Però ti dico una cosa, che come c'è stata la prima vera partita, la Supercoppa contro Borussia Dortmund 2-2, la partita li hanno vinto per rigori, già si è vista una squadra, cioè sembrava come se nel precampionato scherziamo, come arriva bravo, come arrivano i tre punti o l'obiettivo, scendono in campo i campioni. Alla fine hanno cambiato parecchio, perché Lame e Xavi Alonso non ci sono più, però hanno preso dei giocatori dall'Hoffenheim, Rudi e comunque Schule, che sono dei giocatori nazionali tedeschi, e la nazionale tedesca sappiamo, Federation Mondiale, cioè insomma è una nazionale top di queste. Però tolto grandi sorprese, c'è sempre Borussia Dortmund, secondo me, che è l'antagonista principale, nonostante l'Ipsia l'anno scorso è stata l'outside, la squadra che comunque ha dato più modo di parlare di sé, però il Bayern Monaco è quella che è più completa di tutti. Ma la Liga facciamo una super griglia. La Liga la vince il Real Madrid. Facciamo una super griglia. Sono convinto anch'io Real Madrid. Lo sai cosa mi stupisce del Real Madrid? Sembra che dalla vittoria della Champions ne sia uscita ancora più forte. Bravo, esatto, sì, sì. È così. Cioè hanno preso consapevolezza l'ha presa l'allenatore di essere diventato un grande allenatore in quella piazza, dove la gente, comunque tu sai che a Madrid se vinci ti spinge in una maniera, tra stampa, certo, tifosi, certo, come ti fa sentire, cioè sembra quasi che senza entrare in campo hanno già vinto per tutto il contorno che hanno. Sì, però poi Dario, c'è mio amico Capuano che è svenuto per una giocata di Modric, come avesse scoperto l'acqua calda, ragazzi. Modric è uno Modric, dei top. No, dei io top, ho pensato che per tutta l'estate qualcuno ha detto e scritto, ha avuto il coraggio di dire e scrivere che Modric sarebbe venuto a giocare in Italia. Era accostato al Milan. No, però facciamo la super griglia, poi lo salutiamo che c'è la borsa. Allora, il Real Madrid è la squadra più forte d'Europa? Sì. Io penso di sì, che la squadra da battere in Europa è il Real Madrid. La sua avversaria qual è? Cioè, parlavamo prima del Bayern di Monaco, ad esempio. Può essere l'anti-Real Madrid? Sì. Allora, secondo me il Bayern Monaco può essere l'anti-Real Madrid, ma quando arriva il momento decisivo, per un motivo o per un altro, non riesce ad arrivare in fondo. La vera antagonista è il Barcellona, che però sembra che stia cambiando modulo, sembra che è un po'. Che però oggi se gioca 100 volte il classico ne perde 101. Sono un po' depressi in questo momento. Sono un po' depressi a Barcellona. Faccio una domanda: oggi chi gioca contro il Real Madrid, qual è la squadra oggi che può vincere? Nessuna al mondo. In questo momento lo stato di forma, lo stato di grazia, lo stato mentale del Real è top rispetto agli altri. Forse il mio Boca, se giochiamo alla bombonera, e trema anche la terra. No, il che rivaluta terremoto. Anche la finale di Cardiff e la sconfitta della Juventus, anche se adesso non apriamo questo capitolo, ma perché altrimenti non ci basta il resto della trasmissione. Ciao Dario, fino alle 15. Ciao Dario Marcolin. Un abbraccio a voi. Divertiti, grazie. Con la Bundesliga. Allora, Alessandro, buongiorno. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno. Benissimo, state lì perché adesso c'è la borsa e subito dopo parliamo. Tutti convocati. Dalla più grande cacciatrice di fossili all'uomo che voleva andare su Marte, dal profeta della rivoluzione sessuale all'uomo che provò il Big Bang. Cinque storie di scienziati che hanno cambiato la nostra visione del mondo. E noi vi racconteremo e vi suoneremo le loro storie. Tutto questo a Sound of Science, le idee della scienza con le parole della musica. The Sound of Science, il suono della scienza, di Maurizio Melis e Giulia Torino. La domenica alle 15 su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Ieri Marotta ha detto Juve favoritissima. La Juve è favorita se tutti ci rimettiamo con le orecchie basse e lavoriamo e ci mettiamo al pari degli altri, allora la Juve in quel caso diventa favorita. Non è favorita se affrontiamo la stagione con presunzione e partendo dal fatto che la Juve vince di sicuro. Domani, quando alle 18 inizia il campionato, noi abbiamo 0 punti, uguale al Cagliari, uguale al Milan, uguale alla Roma, e quindi per arrivare in fondo al campionato e vincere bisogna fare un punto più degli altri. Cartesiano. Se tutti si metteranno con le orecchie basse a lavorare, secondo me Allegri ha respirato un'aria strana. Alessandro da Roma, vai. Buongiorno. Poi diamo anche due velocissimi aggiornamenti di mercato. Vai Alessandro. Complimenti della trasmissione, io sono da Vicenza intanto, tifo Roma, vabbè c'è questa particolarità. Vabbè. Allora, volevo fare un breve disamine sulla Roma data per morta, defunta, e quinta, sesta e quant'altro. Analisi tecnica, in difesa si è perso Rudiger, ma c'è Hector Moreno e c'è sto Rick Karsdorp, che credo non sia l'ultimo arrivato. Ci sarà. Al centrocampo, via Paredes, ma abbiamo Gonalon e Pellegrini che non li reputo due rincalzi. In attacco, grave perdita sarà ok, ma abbiamo un sostituto di Dzeko ogni tanto, tale De Frel. Questo Aston assente Cengiz Under e 30 milioni da spendere che il buon Monchi credo qualcuno mi porti. Sì. Quindi volevo chiedere a voi se aspetta, aspetta Alessandro, hai dimenticato il cambio più importante di tutti. In panchina, niente da dire. Che io credo faccia pendere, forse è quello il ragionamento, insomma c'è l'idea che la Roma debba ricostruire qualcosa e sia più un'incognita rispetto a quella dell'ultima stagione. Senz'altro, però vorrei anche dire che Spalletti mi ha fatto arrivare la squadra morta a fine anno con il suo ignorare i giovani e con il suo aberrare il turnover, che da un certo punto di vista mi fa pensare che Di Francesco in questo però sia un ha fatto 87 punti, lo so, 87 punti, non è tantissima roba, tantissima in un campionato normale vinci lo scudetto con 87. Poi su ignorare i giovani, quello che ti pare. Però la Roma è fondata su molte scommesse che sono quelle che tu hai citato. Deve vincerle tutte per essere al livello dell'anno scorso. Vincerle tutte, allenatore compreso. Quindi la vedo come una squadra estremamente interessante, ma piena di, appunto, di punti interrogativi, piena di giovani da verificare, e che ha perso invece dei punti esclamativi, cioè dei giocatori importanti. Così è come la vedo io, è contestualizzato sulla piazza di Roma che non è mai, sì. Paziente quant'altro, e con i cugini che sono in pompa. Sì, in pompa secondo me sono in questo momento un pelo davanti, perché loro di punti esclamativi ne hanno parecchi, anche se qualcuno l'hanno perso. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno Centa. Allora, milanista, e quindi dichiariamo subito da che parte stiamo. Non è che, al netto di tutti i filtri che si possono mettere di agosto, settembre, quello che vogliamo, ma non è che il Milan, ringraziando la società, con gli acquisti che sta facendo, organizzandosi bene senza cercare di strappare né di qua né di là, punti alla Europa League, entrando poi dall'altra parte, visto che magari il campionato non andrà come deve andare, oppure la Coppa non va come deve andare, con questi giocatori di cui si vocifera, di cui si parla, eccetera eccetera. Se posso darti una testimonianza diretta, la risposta è no. Poi per carità, l'Europa League il Milan la fa e vediamo dove arriva, ma quest'anno con la riforma che porta 4 squadre in Champions League, tutte, e difatti tutte a modo proprio hanno investito, vedono nel terzo, nel quarto posto la porta giusta per entrare direttamente nei gironi della prossima Champions League, quindi quello è l'obiettivo del Milan dichiarato. La Coppa è alea sempre, ovviamente Champions League, Europa League possono essere soltanto dei bei sogni, possiamo fare tutte le griglie che vogliamo. Adesso quella del campionato, che è una maratona, la griglia dello sprint è difficile farla. La Coppa è legata a molte cose, a molti fattori, a molte stelle, a una notte, a un tempo, come sanno bene anche i tifosi del Milan. Voglio farvi sentire un Massimiliano Allegri sul mercato juventino. Oggi parlare di mercato non ha senso, perché domani abbiamo una partita, la prima partita di campionato, che è sempre difficile, è sempre un'incognita, perché inizia la stagione. Per quanto riguarda il mercato non ci sono contraddizioni con la società, però numericamente a metà campo abbiamo bisogno di un giocatore in più. Matuidi non è ancora un giocatore della Juventus, quindi al momento io parlo solo del giocatore della Juventus e parlo della partita di domani. Al mercato ci pensa la società. Così Allegri, cosa vuoi chiedere a Guido Vaciago in tutto sport? Giovanni? Voglio chiedere a Guido Vaciago perché Matuidi non è ancora stato annunciato e se quel centrocampista in più che serve è al netto o all'ordo di Matuidi. Ciao Guido. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Ma guarda, allora, telegrafico, secondo me, tenendo presente Matuidi, cioè ne serve un altro dato Matuidi, e Allegri con questo fatto che Matuidi non è ufficiale è un po' ciurlato nel manico, perché è chiaro il passaggio al 4-3-3 credo che sia una cosa che ci metterà magari qualche partita, ma che è un passaggio quasi inevitabile, e a quel punto credo che un altro centrocampista non farebbe male, e magari anche scambiandolo con Quadrado, perché no, anche tanto a livello economico come operazione, perché invece sei con qualche attaccante in più, perché se togli un attaccante e aggiungi un centrocampista, per come era stato fatto il mercato della Juve, c'è forse un attaccante in più. C'è una contraddizione che poi è quello che oggi ha negato Allegri, e invece forse c'è. Ma una contraddizione c'è, il fatto è quello di essere partiti con un mercato impostato su un 4-2-3-1 che era il sistema con cui l'anno scorso la Juventus ha brillantemente battuto il Barcellona, ha raggiunto in maniera quasi perentoria la finale di Champions League e poi l'ha persa. Io non credo che sia l'assenza di Bonucci a cambiare il sistema di gioco, perché i problemi della Juve in questo momento, in questa prima parte della stagione, non mi sembrano legati così tanto alle mancate ripartenze dalla difesa, che è la vera nostalgia di Bonucci. Anche se pure ieri, perdonami, nei 50 minuti della sgambata di Villar Perosa, 3-4 palloni sono stati consegnati al centrocampo della primavera. In uscita, io ieri mi sono sorbito sti 50 minuti e devo dire che è andato in fotocopia quello che abbiamo visto con la Lazio, col Tottenham. Mi sono sorbiti, Guido. Però beh, bravi ancora... ragazzi, complimenti, tutta esatto. La mia comprensione. No, infatti, devo dirti la verità, è più preoccupante quando gli hai consegnati la Lazio di quanto tu gli abbia consegnati a Villar dopo un allenamento al mattino, però il concetto è quello, ci sono degli errori che si stanno ripetendo. Ma io credo più che altro che il grande lavoro di Dybala, di Mandzukic, di lo stesso Higuain e di Quadrado in fase difensiva sia venuto completamente a mancare nella partita di Supercoppa, così come nella partita di una settimana prima contro il Tottenham, che sono stati due grandi campanelli di allarme. Ora, cosa succede? Non difendano perché sono imballati, non difendano perché non ne hanno più voglia, perché non c'è più quello spirito che si era creato a gennaio dell'anno scorso. Io credo che la chiave sia poi quella, e il passaggio al 4-3-3 aggiungendo un centrocampista sia in qualche modo per evitare di dipendere troppo dalla voglia di difendere degli attaccanti, lasciandoli un po' più liberi e avendo un uomo in più per fare baluardo, perché poi le infilate che tu prendi con la Lazio sono tutte infilate, perché poi alla fine quando tu difendi con due centrocampisti sono sempre pochi. La Juve l'anno scorso non difendeva con, che dire, con Pjanic, difendeva con Manzo, difendeva con Quadrado, difendeva con Dybala. Ve lo ricordate quel socialismo reale della difesa che si era venuto a creare, in cui tutti davano secondo le loro possibilità e ricevevano secondo i loro bisogni? Cioè era un meccanismo davvero virtuoso. Ora, secondo me il rischio e la preoccupazione che è venuta ad Allegri e magari anche a Marotta è quella che questo miracolo non si ripeta, e allora meglio tutelarsi anche con la possibilità di fare un 4-3-3 un pochino meno effervescente in attacco, ma certamente più solido in fase difensiva. Senti, poi ti lascio l'ultima domanda di Giovanni, però ambasciatore non porta pena, Mattia da Bergamo. Parlavamo prima di Rugani, Rugani a Empoli, 38 giornate senza gialli, scappa sempre sull'uomo, non è a livello dei top. È vero che questa cosa gliela rinfacciano sempre. Io non credo però che adesso contare le ammonizioni possa essere un parametro per giudicare un difensore. Io credo molto in Rugani, mi sembra un ragazzo intelligente, è un ragazzo giovane. Bonucci è diventato Bonucci a 27 anni, tra i 26 e i 27 anni. Quel ruolo, vi racconto, vi rubo proprio un minuto, me lo raccontava Nedved, mi diceva: il ruolo di centrale difensivo è cambiato negli ultimi tempi e i centrali difensivi diventano bravi un po' più avanti, perché è un problema di concentrazione e di esperienza. Quindi se una volta l'età dei centrali difensivi è un po' più anziana, cioè se voi pensate che ancora c'è Barzagli alla soglia dei 37, ci mettono di più a maturare. Esatto. Io mi ricordo le Grottaglie, per fare un altro esempio, uno che nella prima parte della carriera sembrava dovesse essere un fenomeno, era stato bollato come una pippa e poi alla fine della carriera nella Juventus aveva ancora fatto un paio di stagioni di buon livello proprio in base alla sua esperienza, e le Grottaglie si era allevato un pochino Bonucci nel primo anno. Insomma, io quello che voglio dire è che Rugani va aspettato. Io sono convinto delle sue doti tecniche e soprattutto delle sue doti, come dire, di testa, di concentrazione. Magari quest'anno sarà un anno difficile per lui perché si dovrà assumere delle responsabilità, però o nei giovani ci si crede o non si può lasciarli sempre a metà del guado perché sbagliano una o due partite, sennò davvero siamo isterici. Allora, abbiamo un minutino prima della borsa. Sì. Allora, io voglio suggerire la prima pagina di domani di Tutto Sport, che secondo me dovrebbe essere aperte virgolette, tutti, chiuse virgolette, perché oggi due volte Allegri ha usato l'evidenziatore con questo tutti ripetuto tre volte per spiegare che se tutti devono mettere giù le orecchie, lavorare, essere umili, non avere presunzione, altrimenti la Juventus non è favorita. A chi si rivolgeva? Perché questo era un messaggio chiaro, eh? Lui si rivolge a tutti per non sbagliarsi. Sì, perché, ma lui ha in mente qualcuno più, c'è qualcuno che è più tutti degli altri, dai. Bravo. Qualcuno che guarda, è più tutti degli altri. Sì, è vero, assolutamente. Oggi siamo alti, citiamo Marx e Orwell, cioè voglio dire, vogliamo alto. Allora, ti dico, secondo me c'è qualcuno nella squadra, non tanto, la parola umiltà è un po' una parola che può essere presa in vari modi. Io credo che il problema sia quello della voglia, della determinazione che aveva la fame, che aveva la Juve negli anni passati. Quella è la vera chiave, perché poi guarda, si è discusso, Matuidi, Tolisso, ma non è Matuidi e Tolisso, non stiamo mica parlando di Dan e di David, stiamo parlando di due centrocampisti normali. Non è la differenza tra Tolisso e Matuidi che può fare cambiare la stagione della Juve. La stagione della Juve la può cambiare, ritrovare quella voglia, quella fame che faceva sì che tutti dessero qualcosina in più. Se viene a mancare quel qualcosina in più, io credo che a quel punto quel giocattolo un pochino si incrina. Certo. Tu mi chiedi a chi si rivolge. Io nella partita Roma, che poi è l'unica partita ufficiale con la quale possiamo fare in qualche modo un po' da cartina di tornasole, ho visto certi giocatori che erano un po' svantiti. Io ho visto un Quadrato completamente distratto, ho visto un Pjanic un po' mollino, e mi riferisco a loro due non perché poveretti siano più colpevoli degli altri, però perché anche per costituzione fisica potevano meno accusare i carichi di lavoro, perché sono quelli più leggeri, sono quelli che dovrebbero essere in forma. Dybala, che infatti non ha accusato i carichi di lavoro, a un certo punto si è caricato la squadra sulle spalle, a momenti compiva da solo un miracolo, andando a vincere quella partita. È ovvio che uno come Mandzukic, che è alto 1,90 m, che pesa 85 kg, questo momento io posso pensare che non sia una questione di volontà, ma sia una questione proprio di acido lattico e di muscolatura. Mandzukic l'anno scorso ha fatto una stagione mostruosa. Guido, ti ringrazio. Ma io ti confesso questo, io credo che neanche Allegri sappia bene a chi si rivolga, ed è per questo che ha detto tutti. Ha detto tutti, vabbè, lo scopriremo vivendo da domani col Cagliari. Grazie Guido Vacciago di Tutto Sport. Ci fermiamo per il traffico, poi Andrea e Guglielmo, entrambi da Roma, e poi è venerdì Racing Team, due chiacchiere con Roberto Ungaro sul meraviglioso Dove visto domenica scorsa. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Veloci, veloci, veloci. Andrea, buongiorno. Buongiorno, senta, io già comunque hanno detto i vostri ospiti, io vedo la Juve un po' vecchiotta, passano gli anni, oltre alla fiducia magari manca anche la fame. Quindi quest'anno qualcuno potrebbe sognare, non credo la Roma, perché anche io sono romanista, non c'ha proprio i mezzi. Quindi il Napoli potrebbe quest'anno dire la sua e brocca la stagione giusta. Insomma, questo è quello che penso. Quindi votiamo Napoli primo sulla griglia di partenza davanti alla Juventus, mettiamola così. Guglielmo, eccoci, dica. Tutti si dimenticano che l'anno scorso la Juve nel girone di ritorno ha fatto 10 partite in più di tutti gli altri. 2 mesi e mezzo di partite contemporanee. È chiaro che all'ultimo il vantaggio è diminuito. Quelli che dicono che vincerà il Napoli, penso che sanno che si è scritto al campionato del Liechtenstein. Diciamo che insomma la Juventus l'anno scorso a me ha dato l'impressione di gestire il vantaggio, di essere sempre in controllo al di là delle distanze. C'è un amico che ha scritto un messaggio, lo leggo, è critico ma è bello. Proporrò al ministro Lorenzin di rendere obbligatorio per i giornalisti sportivi il vaccino per la ormai epidemica malattia del parlare sempre bene del Napoli. Ma il Napoli fa parlare bene, perché il Napoli gioca bene. Il Napoli nel girone di ritorno l'anno scorso ha fatto 48 punti, ne ha fatti 86. Napoli fa schifo, continua a prendere gol. L'anno prima gol ne ha fatti 82. Cioè, come fai a parlare male del Napoli? Fai? No. Però il vaccino lo facciamo, se dobbiamo farlo, no, lo facciamo. Il vaccino lo fai te. Però perché si deve parlare male del Napoli? Caro Capuano, il vaccino lo fai te. Io no. No, non faccio nessun vaccino. Io invece faccio il vaccino. Mi prendo una pillolona di MotoGP adesso. Racing Team. Mia madre ha pure Viagra, se volete. Roberto Ungaro, The Voice, ciao. Ciao Carlo, ben ritrovati a tutti. Ciao Giovanni. Ciao. Perché Racing Team non dorme mai, neanche d'estate. Siamo qui. Assolutamente no, abbiamo fatto una vacanza fin troppo lunga. Eravamo stufi da morire. Allora facciamo un gioco. Allora Capuano fa la griglia della MotoGP. No, aspetta. Facciamo, visto facciamo che oggi facciamo questo gioco qua. Capuano fa Carlo Gente, io faccio Leo Turrini. Allora sono in coda sulla Pero Cormano, davanti a me c'è la Yamaha che è ferma e non va più. Ma Belen, che cosa possiamo farla fidanzare con questo Marquez, che così ce lo leviamo dai coglioni? No, Marquez non si fidanza, perché è uomo libero, vuole solo dare del gas, non ne vuole sapere neanche di Belen. Dopo questa gara c'è una nuova parentesi. Se non vuole saperne neanche di Belen, Non c'è da preoccuparsi. C'è spazio anche per altro nel gas, ma di gas ne da tanto e quindi staremo a vedere. Comunque in questa attesa, no, Leo magari ci ascolterà, quindi volevo rassicurare Leo, perché tra Belen e Andrea non è tutto bene, nonostante tutto i giornali bene. E sì, vi dicano che ci sia un riavvicinamento tra Belen, la sua vecchia fiamma, ma Andrea tutto bene, tutto è grande amore. Sì, sì. Il problema maggiore è allenarsi, mantenere l'allenamento, credere in se stessi e in questa Suzuki, quindi tutto bene Leo, eh? Adesso aspettiamo tutto bene. Esatto. Il problema è che si sdraia spesso, questo lo sappiamo, sdraia. Giovanni. Che si sdraia lui. Il problema è che la Yamaha non va più. Il problema è che sto perdendo le speranze in Valentino Rossi. Sì, bravo, sempre. Giovanni, ti vedo preparato. Il nuovo telaio ha dato soddisfazioni in curva, ma non migliora il consumo della gomma posteriore, e quindi adesso il grande quesito di noi appassionati è: Vignales o Valentino, cioè la Yamaha, chi ascolterà per lo sviluppo della moto, per gestire, per mettere a posto questo grande deterioramento della ruota posteriore? La domanda è: Vignales è all'altezza di mettere a posto la moto? Se non sono fessi Valentino, no? Appunto. Allora, è chiaro che Valentino, che conosce la Yamaha come le sue tasche, l'è cucita come un vestito su misura, e quindi bla bla bla bla bla bla, Yamaha dovrebbe ascoltare lui. Però Vignales, che è il futuro, anzi diciamo già all'oggi, perché non è il futuro, perché Vignales se azzecca due o tre gare di fila, attenzione a lui, è l'unico vero rivale di Marquez, guardando anche in proiezione. Quindi tu ci hai fatto fuori no, Ungaro così non mi piace, non mi piace mica perché Dovizioso, ragazzi, in un 18 agosto così. Ciao Dovizioso. Ungaro. Allora, Giovanni e Carlo, noi a Racing Team diciamo le cose come stanno, è questo il nostro bello, senza certo. peli sulla lingua, e quindi le diciamo. E allora, Yamaha, chi dovrà ascoltare? Valentino il senior o questo nuovo astro nascente? Che questa è la grande. Vuoi vedere che si ricostruisce mattone dopo mattone il grande muro, dopo quello di Berlino, all'interno del muro di Yamaha, all'interno del box tanto di Yamaha? L'hanno solo smontato e parcheggiato, no? Sì. No, ma Ungaro, lei mi deve spiegare perché mi ha fatto fuori Iannone, Iannone lo sappiamo, l'ha fatto fuori Belen, ma Dovizioso come dove lo mettiamo? Che ci ha fatto... No, allora, hai ragione Carlo, parliamo un po' di lui perché se lo mette, no, perché io non l'ho mai visto così combattivo. È dall'anno scorso che lo dico, ci sono i testimoni. Bravo, bravo Carlo, però non l'ha mai dimostrato così palesemente. Posso dire un aggettivo? A Racing Team ci sta, noi le cose diciamo. È stato per la prima volta cazzuto. Il bastardo, esatto, cazzuto, bastardo che deve essere un pilota. Perché i bravi ragazzi non vincono mai le corse. E quindi Andrea, che aveva questa immagine del bravo ragazzo, non si scollava di dosso questa cosa del perdente, se vuoi. Ha tirato fuori gli attributi, lui stesso l'ha dichiarato, ma ha fatto una gara veramente intelligente, strategia, e battagliare con un market così, che sai che all'ultimo giro è lì, ci prova, e quindi lo aspetti, lo fai andare nella tana dove sbaglia, bravo, e poi bravo, lo freghi. Bravo. Io ho un debole per lui, però l'anno scorso nel duello con Iannone, secondo me gli sono venute, gli è veramente venuto il fuoco dentro, e quella curva è stato un capolavoro. Vieni che ti porto a vedere il beccaccino, ha detto a Marquez, passa di lì che tanto spazio non ce n'è. Esatto, aveva anche una grande moto, però Iannone è secondo me la rivincita di tutti quelli che stanno dietro, che non fanno immagine, che non hanno marketing, che hanno pochi tatuaggi, che non bucano lo schermo, che non fanno personaggio, e alla fine ha dimostrato che, quindi è una grande rivincita di tutte quelle persone che sono nell'ombra, che sono dietro le quinte, però che hanno un grande talento, che hanno grande volontà, hanno grande dedizione, si sono messi lì e piano piano, goccia su goccia, hanno costruito questo successo. Andrea è un ragazzo d'oro che purtroppo non passa ai grandi teleschermi perché non è mediatico come il Vale, ma ce lo come facciamo passare noi, Ungaro Roberto, noi ce lo facciamo passare, perché qui ovviamente è stato ospite tante volte ed è sempre un nostro amico e il benvenuto. Roby, ti ringrazio, non prendere troppi impegni, tu sai perché. Ciao. Assolutamente, io ci sono, ci sarò. Ciao Giovanni, ciao Carlo. Ciao Roberto Ungaro. Ciao. Oh. Domenica, non Roberto Ungaro perché non c'è MotoGP. No. Non c'è Formula 1. Ci tocca aspettare fino a domenica. Domenica ore 17. Ah, Madonna, quanto tempo. Vabbè. Allora, grazie Claudia Schiattone. Questo per dire che torna autore. Tutti convocati il weekend, sì, sì. Quindi in diretta rigorosamente domenica alle 17. Vabbè. Grazie Giovanni Capuano, Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato, ci sentiamo domenica alle 17. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!